طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا. Buongiorno Palestina. Oggi 20 marzo. 133esima trasmissione su Radio Wombat. In quale storia dell'umanità si è assistito ad atti così cruenti e feroci? Al genocidio di oltre 30.000 persone, tra cui 12.000 bambini, senza che nessun governo europeo abbia alzato la voce per dire «Cosa stanno facendo?» Non è stato forse questo silenzio un modo per dimostrare al governo sionista che il loro uccidere, distruggere, fare questa cosiddetta guerra ai terroristi di Hamas era un modo giusto e non ha fatto forse crescere in loro un orgoglio sionista? La risposta retorica è che il silenzio dei governi europei è complice e rafforza lo Stato di Israele. Oggi ne fa le spese la Palestina, ma già anche da noi in Europa vediamo i frutti negativi di una politica che ha preso a modello il loro. Avevamo concluso la precedente anteprima della precedente trasmissione con uno spiraglio di speranza. Il 3 marzo era partita una corposa carovana per Rafah per vedere con i loro occhi cosa sta succedendo. Al convoglio umanitario hanno partecipato, oltre agli operatori e alle operatrici delle organizzazioni della società civile e delle ONG, anche 16 parlamentari, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale, tra cui anche Triestino Mariniello, che è stato spesso ai nostri microfoni, che è professore associato alla Liverpool John Moore University del Regno Unito. Anche lui, alla fine del viaggio, ha rilasciato una sua dichiarazione. E anche lui, perché oggi possiamo farvi ascoltare parte dei diari giornalieri di questo viaggio, inviati da Arturo Scotto, deputato della Camera per il PD, guidato come tutti gli altri, per prima cosa dall'intento di dare voce al cessate il fuoco e prevenire il disastro umanitario. A seguire ascolterete alcuni interventi dal primo seminario itinerante per la Palestina, organizzato da Sanitari per Gaza, che si è tenuto il 14 marzo presso il Polo Didattico Morgagni a Firenze. Ricordiamo che Sanitari per Gaza è una rete nazionale all'interno di un network internazionale, realizzato dalla professoressa Bahia Akiki, neurologo, e da Giulia Davis, OSS. A questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri, sono stati relatori, oltre alla professoressa Bahia Akiki, anche il dottor Lorenzo Mirabile, il professor Roberto Beleduce, Marzia Pateras per Amnesty International, Riccardo Sansone per Oxfam. In questa trasmissione ascolterete parte dell'intervento del dottor Mirabile. Continuano le visite, e non solo quelle di facciata, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai bambini ricoverati al Meyer e in altre strutture. In questa trasmissione vi daremo informazioni più precise sullo stato di salute dei ragazzi e di che cosa fanno. Vi leggeremo inoltre anche il manifesto di proteste dei sanitari per Gaza sull'atteggiamento del governo. Ascolterete tutto questo subito dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la nostra rassegna stampa con una notizia sportiva che per certi versi è molto più politica di altre. Il 14 marzo si è giocata a Firenze la partita di ritorno della Conference League Fiorentina-Maccabi Haifa, squadra israeliana. Da giorni si sentiva parlare di imponenti misure restrittive che avrebbero messo in atto la questura e la società calcistica, sia per quanto riguardava l'area circostante lo stadio Artemio Franchi, sia per quanto riguarda le norme che regolano l'accesso all'interno dello stadio, cosa che puntualmente si è verificata. L'annuncio di tali restrizioni ha portato la tifoseria della curva Fiesole ad uscire con un comunicato pubblico pochi giorni prima della partita e che potete leggere sull'Indipendente nell'articolo dal titolo Fiorentina Maccabi Haifa protesta ultra, città militarizzata per proteggere il genocidio israeliano. Nel comunicato, oltre a contestare le pesanti restrizioni per i tifosi e gli enormi disagi per i cittadini fiorentini a causa dello spiegamento di forze fuori dallo stadio, si condanna apertamente Israele per il genocidio in atto in Palestina, nonché l'ipocrisia dell'Occidente ed in special modo della UEFA, che ha escluso dalle competizioni sportive le squadre della Federazione Russa in seguito alla guerra in Ucraina, ma che non ha detto niente sul massacro in corso in Palestina, continuando quindi a mantenere il silenzio in merito. Nonostante le pesanti restrizioni, molti tifosi hanno sventolato le bandiere palestinesi durante la partita, indirizzando cori e sfottò alla squadra israeliana a fine match, come potete vedere nel video del link all'interno dell'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano dal titolo Tensione al termine di Fiorentina Maccabi Haifa. I dirigenti del Maccabi Haifa, alla fine della partita, hanno rivolto verso gli spalti l'iPad che mostrava la bandiera di Israele. In tribuna d'onore ha seguito la partita anche il console onorario Marco Carrai, mentre all'esterno molti attivisti pro-Palestina distribuivano volantini ai tifosi della Fiorentina, nel quale si ricordava il genocidio in atto a Gaza. Così come viene riportato nell'articolo della Nazione Fiorentina Maccabi Haifa, tensione tra la curva Fiesole e i giocatori israeliani. Vi segnalo adesso due articoli molto interessanti, poiché riportano una notizia che forse è passata un po' in sordina, ma che costituisce, a mio avviso, una presa di posizione molto netta da parte di un paese, la Cina, che fino ad ora non ha mai espresso in maniera così decisa il proprio sostegno alla causa palestinese. Nell'articolo pubblicato dal Palestine Chronicle Italia, dal titolo Una vergogna per la civiltà, la Cina ribadisce la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza, viene riportata la dichiarazione del ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha descritto l'attacco israeliano contro la striscia di Gaza come una vergogna per la civiltà, ribadendo l'appello per un cessate il fuoco immediato. Ma più dirompente, direi, è la dichiarazione che Mao Xinmin, rappresentante cinese, ha fatto rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia, e cioè affermando che l'uso della lotta armata da parte dei palestinesi per ottenere l'indipendenza dal dominio straniero e coloniale è legittimo e ben fondato nel diritto internazionale. E citando le convenzioni internazionali, ha proseguito sostenendo che la lotta condotta dai popoli per la loro liberazione non dovrebbe essere considerata un atto terroristico. Fabrizio Marchi, autore dell'articolo La resistenza dei palestinesi non è terrorismo ma legittima lotta armata, lo dice la Cina, pubblicato sull'Interferenza, nel riportare le dichiarazioni del rappresentante cinese, contestualizza nello scenario politico mondiale quanto lui ha espresso, affermando che questa presa di posizione va vista anche come un segnale che la Cina manda all'esterno, facendo capire che non si può escludere questo grande paese dal consesso medio orientale e dalle negoziazioni in merito all'assetto politico e geopolitico di quell'area così vitale anche per gli interessi cinesi. e quindi anche in merito alle trattative che si apriranno sul cosa fare della striscia di Gaza e sul futuro dei palestinesi. Veniamo agli ultimi due articoli di oggi che potrete trovare sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Nel primo, pubblicato dal Fatto Quotidiano dal titolo BBC Medici denudati e picchiati dall'IDF, vengono riportate le testimonianze di alcuni medici dell'ospedale Nasser di Gaza che il 16 febbraio sono stati costretti dai soldati israeliani ad uscire dal pronto soccorso in fila seminudi, mentre altri venivano torturati all'interno dell'ospedale. Torture che sono andate avanti per giorni e giorni. Alcune di queste scene molto umilianti sono state riprese e pubblicate in un video insieme alle interviste ai medici stessi fatte dalla BBC, che le ha pubblicate. Le immagini del video, il cui link trovate all'interno dell'articolo, sono talmente scioccanti da aver colpito perfino il ministro degli esteri inglese David Cameron, che intervenendo alla Camera dei Lord ha chiesto conto di quanto accaduto alle autorità israeliane. Nell'articolo «L'Italia continua ad esportare armi ad Israele, di altra economia», attraverso i dati Istat pubblicati recentemente, si capisce come le rassicurazioni fatte dal governo Meloni circa il blocco totale operato nei confronti delle esportazioni di armi e munizioni verso Tel Aviv siano una menzogna. I dati ci dicono che nel 2022 il valore delle esportazioni verso Israele era di quasi 18 milioni di euro, mentre nel 2023 era inferiore, sì, cioè di quasi 14 milioni. In realtà però il governo non dice che a dicembre 2023 il valore dell'export è cresciuto di 1.300.000 euro rispetto ai due mesi precedenti, più del triplo del dicembre dell'anno precedente. Questo ci fa capire che se i dati Istat non vengono ben interpretati e compresi, è facile far credere una cosa per un'altra. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. Minutes after there to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? La fila di camion fermi comincia a Ismailia. Gli autisti scendono, si sgranchiscono le gambe. Poco più avanti, un checkpoint è la prima delle tante frontiere interne che da anni segnano l'eccezionalità militarizzata della penisola del Sinai. Un funzionario del governo egiziano è seduto tra le corsie immaginarie del checkpoint davanti a un tavolino impolverato di plastica e un registro d'altri tempi. Scrive a penna le targhe di ogni veicolo in transito. C'è lo spettro sociale al completo, auto scure con uomini in giacca e cravatta, furgoncini arrugginiti, pulmini di famiglia, ragazzi con la kefia avvolta sulla testa e il volto scurito dal sole, che qua picchia forte. Passa un pullman della Sinai University, è vuoto. Lo segue un pick-up. Trasporta centinaia di trecce d'aglio. Qualche centinaia di metri dopo appare il checkpoint che conduce al tunnel del canale di Suez. 10 corsie, deserte. Era immaginato forse per un traffico imponente che oggi non esiste più. Il Sinai è blindato. In fondo a ogni corsia hanno montato scanner a raggi X per autobus e tir. Di camion se ne vedono altri, alla spicciolata, hanno i loghi come UNRWA, OIM, ONG turche. Ricompaiono centinaia di chilometri dopo, prima ad Al-Arish e poi a Rafah. È qui, a un soffio di Gaza, che prende forma l'operazione Spade di Ferro, lanciata da Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. È nei 1500 camion umanitari, immobili tra Al-Arish e Rafah, sono strapieni di aiuti e la destinazione è a un passo, eppure aspettano lì, sotto il sole del deserto. Era questo l'inizio di un articolo di Chiara Crusciati sul manifesto dal titolo Lettera X al valico proibito. La vita non può entrare a Gaza. Vi abbiamo letto questo articolo, una parte di questo articolo, per introdurre i diari delle 5 giornate della carovana in viaggio per il valico di Rafah, di cui ora vi daremo lettura. 4 marzo 2024. Diario del viaggio di Arturo Scotto in Egitto e a Rafah con una delegazione di parlamentari e rappresentanti delle principali ONG italiane che operano a Gaza. Il Cairo. C'è solo una parola che ritorna sempre. Prima di tutto, il cessate il fuoco. Siamo in 50 dall'Italia, probabilmente il più grande gruppo internazionale che sia andato in missione in Medio Oriente dal 7 ottobre. In un giorno in cui falliscono per l'ennesima volta i colloqui per la tregua tra Israele e Hamas, sotto la supervisione di Qatar, Egitto e Stati Uniti. E proprio in questa megalopoli, in qualche luogo segretissimo di questa città, immensa, caotica e insonne. L'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, la rete AOI, che ha organizzato per mesi questa visita, ci accoglie con Ilaria Masieri e Alfio Nicotra. Le istituzioni ci sono e provano a squarciare il velo di una solitudine che in questi mesi il mondo della cooperazione nei luoghi di guerra ha vissuto in maniera drammatica. L'Egitto non è la periferia della crisi, ma l'epicentro inevitabile di tutti i suoi effetti collaterali e la porta di accesso degli aiuti umanitari che passano a singhiozzo per il valico di Rafah da 5 mesi. Ma è anche il luogo in cui fuggire dalla guerra, il teatro in cui i rifugiati di Gaza possono pensare di salvarsi dalla trappola mortale. Medici Senza Frontiere dice: 10 giorni fa hanno distrutto un loro ambulatorio con 2 morti e 7 feriti. Pensavano di essere al sicuro, essendo una ONG che attraversa da decenni tutti i teatri di guerra ed è premio Nobel per la pace. Ma a Gaza non esistono zone franche e i loro volontari, di cui 70 sono palestinesi, sono allo stremo. Hassam Younis, direttore di Mezzan Center for Human Rights, lui stesso rifugiato in Egitto da 2 mesi, dichiara di aver dovuto procacciare cibo per animali per far mangiare la sua famiglia. Come affermano Medici Senza Frontiere, è tecnicamente impossibile tracciare l'entità del disastro. Il 16% dei bambini soffre di grave malnutrizione. 265.000 sono le persone affette da infezioni dell'apparato respiratorio, 210.000 i casi di diarrea, 70.000 le malattie della pelle, 80.000 i casi di epatite, dovuta ovviamente a promiscuità, condizioni igienico-sanitarie minime, acqua non potabile. Si aggiungono inoltre 300.000 malati cronici, diabetici, oncologici, ipertesi, cardiopatici, il cui ciclo di cura è totalmente saltato in aria. Inoltre, dove non uccidono le armi, ci pensano le malattie. Il colera viene considerato un'epidemia altamente probabile, qualora dovesse continuare l'assedio a Gaza per altri mesi. In serata siamo all'ambasciata italiana che ha lavorato per farci avere i permessi di ingresso nel Sinai per poter raggiungere il valico di Rafah. Da mesi i nostri diplomatici, guidati dall'ambasciatore Michele Caroni, sono il terminale dell'organizzazione degli aiuti umanitari che vengono dall'Italia portati da ONG e istituzioni, oltre ad aver supervisionato l'arrivo della nave Vulcano ad Al-Arish e di 100 bambini palestinesi curati poi negli ospedali italiani. Domani al Cairo incontreremo l'UNRWA e l'OSHA ed altre agenzie delle Nazioni Unite per un briefing mattutino. Poi affronteremo il lungo viaggio verso il Sinai in autobus con 3 checkpoint da attraversare prima di arrivare ad Al-Arish, l'hub da cui partono i convogli umanitari per Gaza. Cinque marzo 2024, dal Cairo ad Al-Arish. A un certo punto della mattinata si è materializzata la pietra dello scandalo. Si chiama UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi che opera da oltre 70 anni a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria e in Giordania. Eppure, a sentir parlare i dirigenti delle agenzie che abbiamo incontrato, si scrive UNRWA, ma in realtà si legge ONU, perché l'attacco all'UNRWA è in realtà l'attacco a tutto il sistema delle Nazioni Unite, alle istituzioni multilaterali e alla loro dimensione diplomatica. La mattina Zamalek è dedicata dunque al confronto con le agenzie umanitarie che stanno sul campo, dall'OMS all'ONU, dall'UNRWA alla Mezzaluna Rossa Egiziana. Il giudizio unanime è che la parola catastrofe sia insufficiente per descrivere lo stato di Gaza oggi. Per il direttore regionale dell'OMS, Richard Brennan, la quantità degli aiuti umanitari è largamente insufficiente. Il 70% delle infrastrutture civili sono state distrutte o gravemente danneggiate. Crescono gli assalti ai pochissimi camion di beni e viveri che entrano nella striscia, mentre aumentano gli attacchi efferati dell'esercito israeliano sui palestinesi in fila per ricevere aiuti o nella speranza di riceverli. E fa un appello. L'obiettivo di liberare gli ostaggi non ha nulla a che fare con la distruzione dell'UNRWA. Se saltano loro sarà il caos, fidatevi. Questa è la sua previsione. Sahar Al-Jubri, direttrice dell'ufficio UNRWA in Egitto, e Adnan Abu Hasna, media advisor per UNRWA Gaza, ci dicono subito che non si stanno piangendo addosso, nonostante il discredito internazionale e le perdite di molti funzionari. Lo staff dell'UNRWA conserva grande resilienza. Gestiva 300 strutture di servizi pubblici ormai quasi interamente distrutte, molte delle quali nel nord di Gaza, dove le missioni sono state ridotte al minimo. Sono molto netti su un punto. Stanno ancora assistendo 1 milione di persone. Si occupano di bisogni e di necessità dal cibo alle cure, dall'assistenza psicosociale all'attività ricreativa per i bambini. Ma le strutture dell'UNRWA stanno ormai allo stremo, quelle strutture che prima del 7 di ottobre ospitavano circa 300.000 bambini. Amani Salah, responsabile dell'ufficio OSHA in Egitto, ci fornisce un dato sui camion in ingresso al valico di Rafah. Sono solo dai 60 ai 70 al giorno. Ne servirebbero almeno 500 al giorno per garantire la sopravvivenza, ma si tratta di un numero impossibile da raggiungere senza il cessate il fuoco. Salah aggiunge che il meccanismo dei controlli dei camion è volutamente complicato e farraginoso. Israele può far attendere anche 30 giorni per visionare le merci e gli uffici al cosiddetto valico di Kerem Shalom, a nord della striscia, fanno orari dalle 9 alle 17 ed è lì che si fanno le ispezioni dei carichi. Si ripetono episodi in cui il crimine si confonde con cinismo e burocrazia. Una fornitura di cornetti al cioccolato viene lasciato fuori dal valico per settimane, in quanto considerato un bene non necessario. Ma di beni non arrivano nemmeno quelli ritenuti fondamentali. come le pastiglie di purificazione per le acque, i sacchi a pelo, i frigoriferi, i generatori per gli ospedali, persino i gabinetti. L'URWA ci spiega che a Rafah, nei campi allestiti per le persone sfollate, c'è un gabinetto ogni 400 persone, quando la media nelle strutture di accoglienza è di 1 a 20. In questo dato risiede una delle minacce fra le tante che incombono su Gaza, l'esplosione di epidemie, che potrebbero, qualora non ci fosse un cessate il fuoco permanente, generare 85.000 morti per malattie. Una stima spaventosa che mette d'accordo OMS, UNRWA e OSHA. Alle 12.30 lasciamo il Cairo e ci muoviamo con l'autobus per raggiungere Al-Arish, dove pernotteremo. È l'hub principale dei camion che portano gli aiuti e la città capitale del Sinai del Nord. Si prevede di arrivare alle 18.30, ma dobbiamo superare 3 checkpoint, il primo dei quali serve ad attraversare il tunnel sotto il canale di Suez. Veniamo fermati a Port Said, dove il controllo dura circa 2 ore, perché a verificare i nostri passaporti sono contemporaneamente polizia ed esercito. L'attesa si prolunga mentre aspettiamo una scorta armata che ci condurrà nella notte attraverso il deserto del Sinai fino a destinazione. Usciti dal checkpoint ci attende una fila lunghissima di camion, molti dei quali con doppia bandiera, turca e palestinese, che da giorni aspettano il permesso di proseguire. Saranno almeno 500 e siamo soltanto a 3 ore di auto dal valico di Rafah, dove le agenzie umanitarie confermano che sono bloccati circa 1.500 camion in attesa di entrare. Marzo 2024, Rafah. Yusuf arriva sotto la grande porta del valico di Rafah e chiama al telefono la sorella, che è dentro Gaza a pochi chilometri da lì, a Jabalia. Yusuf è palestinese, fa parte della nostra delegazione, rappresenta l'ONG Educate e fino a qualche mese fa era dentro la striscia a lavorare per la cooperazione italiana. Parla un italiano fluente e vive attualmente a Rimini. Si è salvato dalle bombe perché non era a Gaza dopo il 7 ottobre, ma tutta la sua famiglia è rimasta a vivere lì, intrappolata nell'apocalisse. La madre è morta durante i primi bombardamenti, il resto della famiglia ha visto distruggersi in poco tempo tutto quello che possedeva. Yusuf non trattiene le lacrime, resta davanti al valico per 1 ora e mezza, riesce a parlare con altri 3 amici che sono dall'altra parte del valico perché finalmente funziona il suo vecchio numero di telefono. La frase che pronuncia ripetutamente senza sosta è forte e chiara e a tratti sfidante. Io tornerò qui. Al valico il sole spacca le pietre, il caldo ti avvolge e ti spossa. La fila dei camion che attendono di entrare è lunghissima. Il direttore dell'UNRWA di Gaza, Scott Anderson, americano, ci viene incontro, chiede di incontrare i parlamentari prima di parlare con i giornalisti. Ci ricorda che la giornata migliore per l'ingresso dei camion era stata il giorno prima. Ne sono entrati 40. È una battuta ironica che restituisce quanto sia ormai fortemente compromesso tutto il sistema di aiuti. Sono numeri ridicoli, oggettivamente. Questi tir, prima di oltrepassare il valico, devono spostarsi a 15 chilometri per arrivare all'altro valico di Kerem Shalom in Israele, dove vengono ispezionati accuratamente e poi rispediti di nuovo a Rafah. Ispezionati dagli israeliani, dove lì possono aspettare anche settimane prima di entrare nella striscia. Quando visitiamo l'hub di OSHA, sostanzialmente il mega parcheggio dei camion, veniamo circondati dagli autisti, come se stessero facendo un sit-in di protesta. Vogliono parlare anche loro, non lasciare il microfono solo ai pur bravissimi operatori dell'OSHA. Sembrano fuori dalla grazia di Dio. Sono spiaggiati da settimane, alcuni anche da più di un mese. Trasportano cibo in scatola pacchi di farina, riso, coperte, casse di acqua, tende da campeggio. Il minimo essenziale per campare, perché vivere è certamente un'altra cosa. Ma la guerra non è solo morte e distruzione, è anche burocrazia, cieca, fredda, arcaica. E far aspettare significa esercitare il principio di autorità, significa dire al mondo chi comanda, chi può accendere o spengere l'interruttore. In fondo l'esercizio del potere è questo, disporre della vita degli altri. E il blocco dei tir al valico di Rafah descrive esattamente questa condizione. Il problema è che in 5 mesi questa città è diventata il rifugio di 1,5 milioni di persone, i cui accampamenti, organizzati prevalentemente dall'UNRWA, non hanno i mezzi sufficienti per reggere l'urto dei bisogni di tanta umanità disperata. Lasciamo Rafah e torniamo ad Arish e a visitare il centro logistico della Mezzaluna Rossa. Qui si stoccano le merci che non hanno passato il vaglio di sicurezza di Israele. Visitiamo un paio di capannoni e vediamo la quantità di aiuti che sono arrivati da tutto il mondo. Arabia Saudita, Kuwait, Germania, Francia, Australia, Indonesia, oltre a ONG come Oxfam. Sconcerta che tra i beni bloccati ci siano anche quelli salvavita. Respinti anestetici, incubatrici per bambini, bombole di ossigeno, generatori, toilette chimiche, refrigeratori, depuratori d'acqua. E poi le ambulanze, ne autorizzano 7 a settimana, mentre lì ne sono parcheggiate 16. Così si lamenta Ahmed, che ci accompagna nei depositi per conto della Mezzaluna. Ecco, qui la domanda va rivolta non a Israele, ma agli stati donatori. Com'è accettabile un trattamento del genere? Per quale motivo si mandano beni fondamentali con i soldi dei contribuenti e l'impegno delle ONG e queste non arrivano a destinazione? Parliamo di paesi con cui ci sono accordi di cooperazione o in ogni caso rapporti di buon vicinato e da sempre e che dovrebbero esigere il rispetto e la trasparenza. Perché almeno su questo punto non si esercita una pressione forte e pubblica su Netanyahu? Non siamo davanti ad armi di distruzione di massa, siamo piuttosto davanti ad armi di sopravvivenza di massa. Negarle rappresenta qualcosa di più di uno scandalo. March 7, 2024. Di nuovo al Cairo. La Lega Araba è nel cuore del Cairo, a 2 passi da Piazza Tahrir, un luogo importante della città, oltre che l'epicentro delle proteste antigovernative nel 2011. Incontriamo i consiglieri dell'ex segretario generale della Lega Araba, Amir Musa, il quale sta avendo un incontro con i ministri degli esteri della Lega e dunque non può riceverci. Anche lì, all'ordine del giorno, c'è Gaza. L'incontro dura oltre 1 ora e mezza e non è una passeggiata. La cortesia è ovviamente come sempre enorme. Eppure avvertiamo la marginalità del nostro paese rispetto alla guerra di Israele sulla striscia. Ivi compresi riferimenti espliciti al voto alle Nazioni Unite, dove l'Italia si è sempre astenuta sul cessate il fuoco, differenziandosi dalla Francia e dalla Spagna. E riferimenti al progetto dell'ENI per estrarre il gas a largo della striscia. La richiesta è il cessate il fuoco, ma anche un ruolo più assertivo dell'Unione Europea. Sono preoccupati che vi sia un allargamento degli scenari di guerra. Sono anche preoccupati che vi sia una crescita dei fondamentalismi che possano sfruttare la causa palestinese a proprio vantaggio. Sono preoccupati dei doppi e dei tripli standard che l'Occidente utilizza nei confronti di popolazioni non bianche. Prendono le distanze da Hamas, ma sono chiari nell'affermare che niente giustifica la punizione collettiva inflitta da Israele sulla popolazione civile a Gaza. I palestinesi devono avere l'ultima parola, dicono, riferendosi ad un futuro scenario post cessate il fuoco. Come dimostrano tutti i tentativi più recenti, non può esistere e sarà sempre fallimentare una soluzione imposta sulla loro testa, Il messaggio è rivolto agli Stati Uniti, all'Unione Europea e anche a larga parte del mondo arabo. L'Egitto, da questo punto di vista, resta un osservatorio privilegiato. Nemmeno il regime di al-Sisi è riuscito a frenare l'ondata di sostegno popolare verso i palestinesi. In un paese dove la militarizzazione e il controllo sociale sono fortissimi, sono spuntate ovunque bandiere palestinesi. Gli stadi sono il teatro principale di queste manifestazioni di solidarietà. Tant'è che le relazioni con Israele ormai sono limitate solo alla gestione del valico di Rafah. La posizione politica dell'Egitto, il paese arabo che per primo ha riconosciuto Israele e ha firmato un accordo di pace, è molto rigida nei confronti dell'accoglienza dei palestinesi. L'Egitto teme l'eventuale trasferimento dei profughi provenienti dalla striscia, che richiederebbe una complicatissima gestione e un'attività di controllo ulteriore. Perciò al-Sisi spinge per una soluzione politica, altrimenti si ritroverà la questione palestinese all'interno dei propri confini, mentre la situazione economica del paese, con un'inflazione al 40% ed enormi disuguaglianze, continua a deteriorarsi. Torniamo verso l'ospedale italiano al Cairo, accompagnati dall'ambasciata italiana. Siamo accolti da Suor Pina, che ci accompagna all'incontro con il capo della Mezzaluna Rossa palestinese, che ci conferma il quadro che abbiamo visto con i nostri occhi a Rafah. All'ospedale stanno curando alcuni bambini palestinesi e ci permettono di visitare 3 famiglie arrivate da poco tempo dalla striscia. I bambini, uno dei quali ha subito un'amputazione a un arto, hanno gli occhi pieni di terrore. I genitori hanno paura di non poter più tornare in Palestina, dove hanno lasciato parte della loro famiglia, ancora sotto le bombe. Il nostro viaggio termina qui, dopo 4 giorni passati in fretta e con tanti numeri nella testa, numeri dietro i quali si nascondono volti, storie, famiglie, biografie, vita e morte. Abbiamo deciso di scrivere, prima di lasciare il Cairo, una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una lettera firmata dai parlamentari delle 3 forze politiche che si sono recate a Rafah, ma anche da tutte le ONG che hanno organizzato la visita e dagli accademici presenti. Si chiede di dare seguito al voto del Parlamento sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi e sulla ripresa dei negoziati per una soluzione politica. Prima di passare alla seconda parte della trasmissione, vi vogliamo dare informazione sulla presenza dei bambini palestinesi che sono stati operati al Meir e delle loro famiglie, e vi diamo un aggiornamento su quanti sono, chi sono e come trascorrono le loro giornate. دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت Bambini al Meir. Le famiglie palestinesi giunte al Meir sono divise in questo modo. Alcune hanno i bambini ancora ricoverati, altre sono a Casa Matilde, una struttura fuori del Meir gestita dalla Caritas di Firenze, dove ad oggi si trovano 4 mamme sole con figli che sono stati curati all'ospedale per varie ferite da arma da fuoco o per i bombardamenti e 2 bimbe per problemi acuti ai reni. Questi bambini sono 6 e sono Rahaf, femmina 10 anni, Jena, femmina 13 anni, Samira 16 anni, Anas, maschio 10 anni, Mohamed 9 anni, Issa, maschio 10 anni. C'è poi un babbo con il figlio in sedia a rotelle perché ha dei chiodi nella gamba destra, a causa dei bombardamenti gli si era rotto il femore. 2 bimbe che abitano a Casa Matilde fanno la dialisi, la faranno per il resto della loro vita. Un altro bimbo ha avuto un brutto trauma cranico e ha ancora una cicatrice in testa. Il fratello e la sorella, che stanno meglio e ora non necessitano di cure, sono stati trasferiti in altri alloggi lontano dall'ospedale. Altre 2 famiglie stanno nelle case dei Valdesi per lo stesso motivo e i 4 bambini che sono andati via sono Hussein, 9 anni, Mohamed, 7 anni, Ahmed, 4 anni e Jasmine, di 8 anni circa. All'ospedale di Don Gnocchi si trova ancora Moaz, bimbo superattivo di 2 anni e mezzo, allettato sempre a causa di una scheggia che gli ha danneggiato la colonna vertebrale. Insieme alla sua bellissima e sempre sorridente sorellina Alma, di soli 8 mesi, e la mamma, saranno ancora a lungo ospite dell'istituto. Moaz rischia di perdere il movimento alle gambe. Gli facciamo i nostri migliori auguri. La donna che ordina la casa, Silvia, gentilissima e ha una gestione molto informale, permette le visite di persone che vogliono essere utili, perché coordina la casa Matilda, Silvia, gentilissima e ha una gestione molto informale, permette le visite di persone che vogliono essere utili, tanto che una domenica c'erano 20 persone, palestinesi, libanesi, egiziani e marocchini. Nel fine settimana ci sono molte visite, ma anche durante la settimana. Mariella di Assopace Palestina si è occupata insieme ad un'altra donna libanese di portare le donne e i babbi a fare spesa sia ai negozi arabi che alla Coop e il fine settimana porta le bambine e i bambini a giocare al parco giochi. Cerchiamo di fare incontrare tutti i bambini, anche quelli che non stanno più vicino al Meir, perché sono molto legati tra di loro. Stiamo anche attivando volontarie che lavorano come insegnanti di lingua 2 per fare imparare italiano. I bimbi hanno già fatto alcune lezioni e sono molto contenti. Non hanno ancora i documenti, permessi di soggiorno e codici fiscali e chiediamo che la prefettura e la questura facciano al più presto a rilasciare loro i documenti. Siamo preoccupati per il resto delle loro famiglie che si trovano ancora a Rafah. Hanno molta paura che Israele attacchi Rafah e metta a rischio i loro familiari e tutte le famiglie che si trovano lì. A chiedere ad Anas «Stai bene?» risponde «Come faccio a star bene mentre i miei fratelli a Gaza soffrono la fame, il freddo e bevono acqua inquinata?» Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione dove vi faremo ascoltare parte degli interventi di un seminario itinerante sulla Palestina organizzato da alcuni docenti e alcuni componenti del personale tecnico amministrativo dell'Unità di Firenze, con gli enti di ricerca dell'area fiorentina che hanno firmato l'appello da parte di accademici e accademiche italiane per richiedere un'urgente azione per un cessate il fuoco immediato e il rispetto del diritto umanitario internazionale. Intendiamo costruire questo è l'intento del seminario, uno spazio per lo studio, la ricerca e il confronto sulla Palestina dal 1948 ad oggi, alla luce dell'attacco militare dell'esercito israeliano contro la striscia di Gaza. Attacco che sta causando la catastrofe umanitaria ancora in corso e che ha portato lo Stato israeliano a finire sotto processo di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di genocidio. Considerato che i media italiani veicolano troppo spesso un'informazione asimmetrica e unilaterale sulle vicende in atto in Palestina, ci prefiggiamo di promuovere incontri di approfondimento dedicati a tutte le componenti della comunità universitaria di Firenze, in primo luogo agli studenti e alle studentesse, e aperti alla cittadinanza tutta. Del primo seminario itinerante per la Palestina organizzato da Sanitari per Gaza, che si è tenuto il 14 marzo presso il polo didattico Morgagni, vi faremo ascoltare parte dell'intervento del dottor Mirabile. Per presentarvi il dottor Lorenzo Mirabile, per chi non lo conosce, vi facciamo ascoltare una sua intervista. Il dottor Mirabile è stato chirurgo, anestesista, esperto delle vie aeree, più volte impegnato in Cisgiordania e nella striscia di Gaza come volontario del PCRF Italia, insieme ad altri volontari dell'ospedale pediatrico Meyer e dell'ospedale del cuore Massa Fondazione Monasterio. La sua intervista è andata in onda su RTV 38 nel 2021. Tutti questi bimbi su cui ho lavorato sono stati figli miei, sono stati parte della mia vita e della mia famiglia. Ho amato la mia vita e tutto quello che ho fatto. La mia professione è stata veramente parte pregnante della mia vita. Lorenzo Mirabile è un chirurgo anestesista rianimatore e specialista delle vie aeree. Ha salvato migliaia di bambini in tutto il mondo con tecniche mediche innovative che sfiorano l'impossibile. Ancora oggi è andato in pensione, alla luce negli occhi, al ricordo dei suoi interventi. Dottore, cosa si prova ad avere nelle proprie mani la vita di un bambino? È una cosa veramente indescrivibile. Io ricordo, nella mia esperienza, di aver posizionato uno stent, che è una di quelle gabbiette che servono per aprire i bronchi chiusi, congenitamente chiusi o chiusi per delle complicanze particolari. Avevo tra le mani un bambino di 4,60 e dovevo andare a mettere uno stent nel bronco principale di sinistra, ed era come entrare nella carta velina con uno strumento di acciaio. Quella è stata un'emozione incredibile. Queste sono le meraviglie di questo lavoro, sono quelle cose che ti fanno accapponare la pelle e che ti restano dentro per tutta la vita. La sua formazione parte da lontano. Medico 26enne, approdò all'ospedale di Bergamo. Da lì inizia la sua storia. È stata una fucina di esperienze, di vita. Per un medico è stata veramente l'esperienza più bella. Ho visto bambini portare bambini a 18 gradi con ipotermia di superficie, poi operare a cuore fermo questi bambini, cose veramente incredibili. E in quella sede a Bergamo ho iniziato ad occuparmi di endoscopia respiratoria, quella branca della medicina che consente di entrare con degli strumenti miniaturizzati nelle vie aeree senza aprire il torace. Pioniere di metodiche innovative, per 12 anni è stato anche l'orgoglio e l'eccellenza dell'ospedale Meyer di Firenze. Partivamo da 4 posti letto e siamo arrivati a 19-20 posti letto. Mi arrivavano bambini da Catania piuttosto che da Milano, dall'Algeria, dal Marocco, quindi è stata un'esperienza molto significativa. La bravura del professor Mirabile è pari alla passione per il suo lavoro e all'amore per i bambini. Durante i suoi periodi di ferie, spesse volte ha portato il suo talento in tutto il mondo, curando le piccole creature affette da gravi malattie. Siamo andati in Iraq, siamo andati in Egitto. Ogni 4-6 mesi vado lì e cerco di far del bene a dei bambini che altrimenti morirebbero. Lì si muore per le cose più semplici ancora. E la mia vita in quei territori è stata veramente caratterizzata dal piacere di donare la mia professione per il bene primario, per la sopravvivenza di tutti questi piccoli bambini. Adesso che è andato in pensione, qual è la sensazione che le manca di più? Sentire la vita di questi bambini e le speranze dei suoi genitori affidati alle mie mani. Credo di aver fatto parecchio bene a questi bambini, perché la passione mi ha spinto dove volevo, e loro hanno fatto bene a me perché mi hanno riempito la vita, perché tutti questi episodi sono le pietre miliari della mia esistenza e mi hanno insegnato cosa significa l'amore verso la professione, l'amore verso la vita degli altri, l'amore verso la vita. Qui l'ho ricevuta intorno a mezzogiorno oggi ed è una lettera scritta dai medici del Meyer. Ve l'ho un po' sintetizzata, ma è una forma di protesta verso il nostro governo, che ha deciso insieme ad altre 16 nazioni di ridurre gli stanziamenti economici umanitari verso il popolo palestinese. Questo è veramente brutto e quindi merita un approfondimento questo. Per cui è proprio una realtà questa lettera ricevuta in giornata e è conseguenza della visita della nostra Premier Meloni all'ospedale pediatrico. Dunque, io sono andato per la prima volta in Palestina grazie al Palestine Children's Relief Fund nel 2011, e devo dire che, come tanti occidentali, avevo una cultura un po' orientata, diciamo così, in senso israeliano, ma sono andato con molta curiosità e ho cambiato completamente la mia visione del mondo medio orientale. Io pensavo che gli israeliani avessero avuto la sfortuna di essere capitati in un territorio arabo, adesso sono convinto assolutamente del contrario. Per iniziare questa nostra piccola discussione mi piace riportare quelle che sono le parole di Papa Francesco. Bisogna fermare le guerre, ma prima è indispensabile capire e risolvere le ingiustizie che sono la base delle guerre. Perché qui veniamo da molto lontano. Io sono tornato l'ultima volta da Hebron nell'aprile, inizio di aprile del 2023, e ho presentato una relazione che si chiamava Il mondo che non conta, perché tutto quello che succede in Palestina viene quasi scotomizzato dalla cultura occidentale. Sono sempre successe da più di 70 anni realtà veramente incresciose, tra virgolette, ma noi abbiamo stigmatizzato, abbiamo cancellato dalla nostra letteratura tutto questo. E tanto per dirvene una, l'ultima volta ero a Nablus, mi sembra, e abbiamo sentito, eravamo in un pomeriggio libero dal lavoro, abbiamo sentito tre spari. Ma cosa è successo? Insomma, un checkpoint israeliano. Tre ragazzi palestinesi si erano rifiutati di presentare i documenti perché si ritenevano nel proprio territorio, a casa loro, e sono stati freddati uno dopo l'altro. Ma qui non è arrivato niente di tutto questo. Noi abbiamo sempre avuto un'informazione molto, molto orientata. E facciamo un po' di storia per arrivare ai giorni ad oggi, breve se possibile. La Palestina è da 75 anni una terra luogo di conflitti molto violenti tra Occidente, Israele e palestinesi. Ma la grande problematica è iniziata il giorno in cui Ben Gurion, il 14 maggio del 1948, crea l'autoproclamazione dello Stato di Israele. Il giorno dopo, Yahum al-Nakhba, cioè il giorno della disgrazia, si identifica con la ricorrenza commemorata ogni anno il 15 maggio, con la quale i palestinesi rievocano l'estromissione di buona parte degli abitanti della Palestina dai confini dello Stato, del loro Stato. E ancora da un rilievo anagrafico, nel 2015 vedete che erano oltre 5 milioni quelli distribuiti in campi profughi, e qui c'è un grafico di quella che è la realtà tuttora, anzi fino a poco fa, dei campi rifugiati. Nella storiografia israeliana questa epurazione viene definita pulizia etnica, quindi questo esodo palestinese viene definito come una pulizia etnica. I palestinesi privati delle loro case ancora si tramandano le chiavi delle loro case nella speranza di potervi un giorno tornare, ahimè. Ma nonostante l'ONU abbia fornito una risoluzione che può garantire ai palestinesi il diritto al ritorno alle proprie case, Israele non ha accettato questa decisione e ritiene più logico che queste popolazioni siano disperse in campi profughi. Questa è stata una data storica, un momento veramente importante della storiografia e della politica internazionale, il Trattato di Oslo del 1993, stretto tra Rabin e Yasser Arafat, che quell'anno stesso ricevette il premio Nobel per la pace. Ahimè, è un trattato che è rimasto lì. Vedete qui sulla cartina c'è l'attribuzione delle varie zone alla Palestina e ad Israele, e non ha avuto purtroppo seguito questo, non ha avuto seguito, e Rabin stesso quell'anno fu assassinato. Non ebbe seguito perché c'è stata una espansione esponenziale degli insediamenti, dei settlement, in Cisgiordania, nel West Bank, territorio attribuito di fatto alla Palestina. E vedete che cosa è successo nel tempo. È successo che della realtà costitutiva dello Stato teorico palestinese è rimasto soltanto il 18% effettivamente con amministrazione e sicurezza palestinese. Tutto il resto è stato fagocitato da Israele, nonostante la Corte Internazionale di Giustizia ritenga questi insediamenti assolutamente illegali. Queste che vedete sono alcune delle missioni che ho fatto nel mondo, grazie alla mia equipe che si occupa di chirurgia endoscopica delle vie aeree. Siamo andati in Cina, siamo andati in Azerbaigian, in Iraq, in India, e in tutti questi territori abbiamo esportato le nostre conoscenze nel campo della chirurgia endoscopica delle vie aeree. Molto significativa per me è stata la consulenza fatta 4 volte presso gli ospedali cinesi, perché vivono una realtà a noi completamente sconosciuta e che per me è stata di grosso impatto. Questa cartina a rappresentare che nella nostra struttura di afferenza al Mayer provenivano bambini un po' da tutti i territori del Nord Africa e del bacino mediterraneo, nonché dell'est europeo. Molto spesso però questi bambini avevano patologie gravi e purtroppo lo Stato non metteva a disposizione immediatamente i soldi per le cure, e quindi è il cammello, qui sono i soldi, tanti bambini non li abbiamo ricoverati in Italia per tempo e sono morti nell'attesa, per cui ho pensato di creare una piccola onlus con la quale venire incontro a queste esigenze qualora si prospettassero. Questa, veniamo a noi, è la mia esperienza prima del 7 di ottobre. Io vi ci porto piano piano per vedere quello che abbiamo creato e quello che è stato distrutto. Quello che abbiamo creato alla fine era veramente significativo, importante, ma nel giro di un giorno è stato completamente distrutto. Allora io ho lavorato sia un po' in tutti gli ospedali più importanti, a Hebron, a Gaza, all'European Hospital di Gaza, a Ramallah, al Makassed, e con tante missioni, anche 3-4 all'anno. Abbiamo operato quasi 500 bambini in queste missioni e abbiamo avuto due decessi. Perché abbiamo avuto due decessi? Perché abbiamo cercato di fare cose complesse, no? I bambini che devono morire perché hanno patologie complesse bisogna lasciarli morire, perché non c'è un prosieguo terapeutico, non c'è una terapia intensiva come quella che potrebbe esserci in Italia, per cui questi bambini poi muoiono. Allora abbiamo deciso di lasciarli morire di loro morte naturale. Il PCRF è praticamente l'organizzazione responsabile delle mie missioni e di tante missioni in Palestina e in Libano. Quelli che vedete raffigurati sono Steve Sosby, che è stato l'iniziatore del tutto, Steve Sosby al centro con la moglie, e Swail, che è il responsabile nella striscia di Gaza del PCRF. Grande parte di questa attività del PCRF è da attribuirsi a Udi al-Nasri, che è la moglie di Steve. La moglie di Steve, che è morta di leucemia a 45 anni e si è fatta promettere dal marito che avrebbe creato dei centri pediatrici oncologici. E questa piccola onlus, questo piccolo ufficio in Cisgiordania, nel tempo è riuscito a creare due realtà oncologiche pediatriche, una a Betlemme, aperta il 27 aprile del 2013, e una al Rantisi, nella striscia di Gaza. E spendendo 3-4 milioni di euro raccolti meticolosamente da Steve. Lui e Swail dichiarava con orgoglio che non mandano più via i bambini per essere curati, o meglio, cercano di evitare di farlo, ma che tante equipe straniere, così come noi, vanno a Gaza, vanno in Palestina per insegnare i metodi più evoluti e perché lì ci possa essere una continuità operativa. Vedete, questi sono, li ho messi così a caso, sono la lista di tanti pazienti che io ho operato in quei territori, e questa è la lista dell'ultima missione fatta a fine marzo del 2023. Cosa dirvi? Allora, sicuramente le strutture ospedaliere sono adeguate. Questo che vedete qui è l'ospedale di Ramallah. Disponevo in quelle realtà di strumentazioni anche più emancipate di quelle che adopero in Italia. A Ramallah, per esempio, c'è un microscopio, un Leica, che è molto evoluto, molto sofisticato, cosa che qui io non avevo. Perché questo? Perché le cooperazioni internazionali forniscono soldi, denaro, apparecchiature. Ma poi cosa manca? Manca medici, professionalità, soldi per mantenere attive le terapie intensive, che sono costosissime. Chi di voi è medico e chi sa quali sono le realtà economiche, sa che una rianimazione è una realtà in passivo, una realtà indispensabile ma in passivo, e quindi non se la possono permettere. Quindi come noi andiamo via da lì, si smonta tutto, e allora ecco perché abbiamo deciso in quei territori di fare solo quello che si può risolvere, le patologie minori, che comunque sono mortali, ma che comunque possono essere risolte senza lasciare esiti. Vedete, stesso discorso ad Hebron, medici volenterosissimi, infermieri con una marcia in più, perché l'esigenza crea la competenza. Veramente ho incontrato delle persone eccezionali in quei territori. E questo, vedete, è l'ospedale, l'European Gaza Hospital, dove andavo a fare le mie missioni spesso. Una curiosità, ve la dico per ridere un po': la prima volta che sono andato a Gaza, entrando con difficoltà attraverso la porta di Erez, Era nel periodo di Natale e sentivo tante esplosioni. Dico, io non sono napoletano, dico, accidenti, anche qua c'è l'abitudine dei fuochi d'artificio. No, caro mio, queste sono bombe, sono esercitazioni degli israeliani in territorio palestinese. E tra queste bombe, anche quelle al fosforo bianco, come è stato detto prima, vietatissime, però utilizzate. Dopo vi mostrerò una fotografia che fa vedere che cosa comporta l'utilizzo di questi ordigni. Questo è l'ospedale Al-Maqasid di Gerusalemme, dove abbiamo fatto tantissime missioni e dove, ahimè, abbiamo visto cose terribili. Vedete in basso, la milizia, l'IDF, entra nell'ospedale col pretesto che in quell'ospedale ci sono dei terroristi e mette tutto a ferro e fuoco. Questo non è possibile. Bisogna rispettare la sacralità di quei luoghi, anche perché molto spesso sono delle fandonie quelle che hanno portato in passato a queste nefande azioni terroristiche. Eravamo a Al-Maqasid e eravamo in difficoltà numerica di personale e abbiamo chiesto di far arrivare degli infermieri da Gaza. Sono arrivati due ragazzi di 30-35 anni e, come ci hanno visto, hanno cominciato a piangere, ci hanno abbracciato. Era la prima volta in vita loro che uscivano da Gaza. Ma voi vi rendete conto? Questa è veramente incredibile, e il mondo occidentale queste cose probabilmente le sa. E tanti bambini che provengono da Gaza, quando noi operiamo a Hebron, a Nablus o a Gerusalemme, non arrivano. Perché? Perché alla porta di Erez decidono che non devono passare. La prigione di Erez, la prigione di Gaza attraverso la porta di Erez, è una cosa pazzesca. 2,5 milioni in prigione, attraverso mura che non possono scavalcare, confinati. Oggi questo esiste, questo esisteva. Le immagini parlano da sole. E questa, vedete, è una realtà correlata a esplosioni di bombe al fosforo bianco. Il fosforo bianco produce, a contatto con l'aria, anidride fosforica, che poi al contatto col corpo umano diventa acido fosforico. Questi bambini ci arrivavano con le vie aeree bruciate completamente, quindi con difficoltà estreme a poter ricreare una pervietà. Queste sono assolutamente vietate dalla Convenzione internazionale, ma loro se ne fregano. Il rapporto di forze che esiste e che è sempre esistito è questo. Il carro armato Merkava è il bambino che lancia il sasso. Veniamo alle nostre missioni. Quali sono i problemi che noi affrontiamo ogni volta che andiamo là? Controlli di frontiera esasperanti. Ma noi veniamo a curare i vostri bambini? No. Voi venite a curare i bambini palestinesi, quindi no. E quindi ore, tante volte il nostro strumentario è stato distrutto. Questa è la nostra logistica, una logistica molto molto artigianale per portare tutte le nostre baracchelle, tutti i nostri strumenti, spesso rotti alla dogana, al Ben Gurion. Ti dicevo delle grosse problematiche assistenziali, non possiamo lasciare cose complesse perché non sopravvivono. Non c'è prosieguo terapeutico, quindi quella che è la nostra opinione è quella di insegnare ai medici locali le nostre metodiche, magari non soltanto con la nostra presenza in sede, ma anche facendoli venire in Italia. Cosa che io ho fatto facendo venire dei fisiatri e dei medici con la mia piccola organizzazione, che posta al fianco del PCRF si presuppone di essere di aiuto logistico, economico per questi bambini e per le famiglie di questi bambini che vengono ad essere curati in Italia. Grandi elargizioni, grazie tantissimo alle istituzioni come il Rotary, grazie alla figlia dell'ex presidente dell'Inter che ci regala sempre tanti soldi con cui abbiamo potuto comprare le nostre apparecchiature. E questa diapositiva per dirvi che noi siamo fortunati, perché noi siamo italiani, siamo nati in Italia, abbiamo avuto questa fortuna di essere italiani. e nonostante la vituperata sanità, qui si fanno endoscopie operative nel feto. Qui io ho messo uno stent in un bambino che pesava 4 etti e 60, quindi cose assolutamente di altissimo livello. Lì si muore per banalità. Questo è quello di cui io mi servo per la mia professione. C'è un insieme di specialisti che servono per rendere, per finalizzare la mia attività. Questo è quello che io avevo e quello che io ho in Palestina. Nisrin Rumman, la pneumologa, e Nemar, il chirurgo pediatra, con loro abbiamo fatto della medicina buona, abbiamo operato tantissimi bambini, sono delle persone veramente eccezionali e con loro stavamo creando piano piano una sanità palestinese, grazie al PCRF che ci ha sempre sponsorizzato. Il 7 ottobre è la fine di tutto. Tutti i nostri sforzi sono finiti nel niente, nelle macerie. La Bahia già ci faceva vedere quelli che sono i disastri di questa guerra, 31.200 morti, 1.700.000 sfollati interni, di cui la maggior parte senza tetto, cioè gente che non sa dove dormire, come dormire, e fa freddo lì, non è che ci sia caldo. Più di 70.000 feriti gravi, 17.000 bambini che non hanno né parenti più e né genitori, 348 sanitari morti, giornalisti morti. Questa ve la lascio leggere. Il numero di bambini uccisi in 4 mesi a Gaza è superiore al numero dei bambini uccisi in 4 anni di guerra in tutto il mondo messi insieme. E questo è lo scempio, persone che morte per strada, i cui corpi vengono a volte dilaniati anche dai cani, questo ce lo raccontava un frate francescano l'altro giorno, scene veramente raccapriccianti. C'è una mortalità infantile fuori controllo, sia per eventi traumatici correlati alla guerra e sia per tutte le implicazioni della sanità. Mancanza d'acqua, mancanza di fogne, spazzatura dovunque. E Ghebreyesus ha detto che questo è veramente il colmo, questo è un genocidio. Avete seguito l'episodio dello Shifa Hospital? Non c'era niente, è stata tutta una farsa, non c'era niente sotto lo Shifa Hospital, eppure hanno distrutto un ospedale. Questo è quello che stima l'OMS, questi sono i disastri apportati, 309 attacchi dell'IDF alle strutture sanitarie, 712 pazienti morti, 348 operatori sanitari uccisi, eccetera, eccetera, eccetera. E parliamo poi della violenza dei coloni. Quegli insediamenti, quei settlement, sono veramente abitati da delle belve umane, cioè gente che non è a destra, è a destra della destra, e che minacciano i palestinesi e che sottraggono proprietà ai palestinesi. Adesso io sentivo la Nisrin che praticamente ha perso la casa, avendo soldi sono riusciti ad andare in Germania con la famiglia, ma gli hanno sequestrato la casa, una casa costruita con sacrifici, il padre dentista, negli anni avevano costruito questa casetta col giardino, basta, non c'è più, io ho il rogito, io te lo straccio. E il Sudafrica, avete seguito, ha preso in esame la situazione e ha accusato Israele di genocidio e la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha fatto una sentenza storica in cui ha stabilito che Israele a Gaza è responsabile di genocidio, ma non c'è un esercito che faccia rispettare questo che è stato stabilito, per cui tutto ciò è soltanto parole per il momento. E con Steve si diceva tutto quello che abbiamo creato, quello che vi ho fatto vedere, i nostri sforzi, i sacrifici, è andato tutto in fumo, non c'è più niente, adesso dobbiamo badare alla sopravvivenza dei bambini. E queste sono le cose che vi ha già raccontato, ospedali non ce ne sono più, quei pochi che ci sono non funzionano, amputazioni fatte senza anestesia, 1000 bambini hanno fatto amputazioni senza anestesia, non ci sono farmaci per lenire il dolore, non ci sono bende per curare le ferite. E non solo, ma le terapie croniche, i bambini ammalati di cancro a Betlemme muoiono perché non ci sono farmaci, non ci sono le strutture idonee più per curarle. Tutto quello che poi è stato già detto, diarrea, epatiti, colera, eccetera, eccetera. La Martina, la responsabile in Italia del PCRF, mi diceva che uno dei nostri contingenti umanitari è stato assalito dall'IDF con la scusa che in quei sacchi si nascondevano armi, hanno distrutto tutto, oltre 30-40 mila euro di alimenti e presidi medici. C'è la fila interminabile di camion che non entrano dalla porta di Rafa. E poi quando entrano c'è stato, avete seguito anche voi, l'assalto degli affamati ai camion, e contro questi affamati c'è stato l'ardire di sparare, hanno ammazzato 104 cittadini che cercavano di prendere cibo e ne hanno feriti altri 750. Io vado avanti veloce, anzi finisco, e concludo con questo, che secondo me è una cosa bellissima, che dice Gandhi: il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. La trasmissione di oggi termina qui, ma sentirete ancora parlare di Palestina venerdì prossimo dalle 13 alle 14.30 in diretta, in una trasmissione dal nome Ponte Radio, che unisce quattro radio: Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Eustachio, Radio Wombat, in uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Quindi ogni venerdì tra le 13 e le 14.30 ascoltateci. E con Buongiorno Palestina torneremo ad aprile. E con questo concludiamo e vi salutiamo. Inshallah. صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة جان.